quanto è vero, ne ho credo, di trovare la mia luce dove ancora non vedo, dare sfogo ai miei pensieri, frasi che vi lasciano riflettere, cantarle in un microfono e potervele trasmettere, capire ogni messaggio. Ho bisogno che ascoltiate la mia voce, che filtriate ogni passaggio, necessito un confronto. Ciò che pensi tu non escluso che potrebbe regalarmi molto. Seguimi, se riesci prendimi, seguo l'attitudine a una direzione in cui non possa perdermi. Ho bisogno di coraggio, certezze, schiaffi per svegliarmi, seguiti da carezze. Voglio di volare senza una destinazione, addormentarmi sotto un seme, risvegliarmi sopra un fiore. Io mi fido di te, so che quando sono in cerca di un supporto lui c'è, sento che... Per sapere che ciò che faccio per te ha valore. Scrivo una canzone perché è quello che so fare, ma tu sei già lontana e questo non potrà bastare. Ho bisogno di sapere se io ancora devo spingere, se un giorno anche lontano potrò vincere. La voglia di far niente che ho, la tristezza che ho, basterebbe un abbraccio che mi dicessi che no, non devo smettere. Che in fondo questo mondo ci dà contro, ma anche questo ci fa crescere, credere in qualcosa di più là, se non altro servirà a darci quell'eternità che io sogno ogni volta per ogni pezzo che scrivo. Che anche quando sarò morto in qualche stelo sarò vivo. E questo è l'unico sogno che ho, il bisogno che ho, non è molto lo so, però... Sai che ho poco tempo da poter sprecare, vorrei guardarmi dentro e potermi confidare. Ho tanta voglia di lasciare un segno che nei momenti utili vi serva da sostegno. Ho bisogno di sentire un altro suono, scrivere su un foglio, poi capire io chi sono. Dovete credere in noi, perché sopra ad ogni cosa abbiamo bisogno di voi.